America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Scooby-Doo, grande film sui cani che con le loro storie da Lassie, Rintintina, le avventure di Rusty ci confermano che da sempre l'America ha una grande storia d'amore coi cani. Oh, Pongo, it's her. I cani parlano, diventano umani, come in questa sequenza che vi ho appena fatto ascoltare, tratta dalla carica di 101, con Pongo preoccupato dall'arrivo di Crudelia DeVille. Avrete sentito certamente storie di miliardari che lasciano milioni di dollari in eredità ai loro cani, di rifugi che sembrano degli ospedali, di canili che sembrano un albergo. Insomma, c'è una passione tale che l'anno scorso, con l'economia in contrazione, il settore, diciamo, dei servizi per animali, soprattutto cani, ha fatturato 53 miliardi di dollari. Solo in spese veterinarie sono state 19 ed è stato uno dei pochi settori al rialzo. Beh, con la recessione ci si consola con il proprio cucciolo. How much is the dog in the window? Quanto costa quel cucciolo in vetrina? Un classico delle canzoni per bambini americane. Beh, le previsioni parlano di un fatturato di 72 miliardi di dollari per il 2014 per il settore. Pensate, un'azienda italiana di Bergamo, che si chiama OPR, ha fatto fortuna producendo uno stampo per la Kong, che fa giocattoli per animali, giocattoli per cani, un giocattolo in gomma resistente con delle forme irregolari che contengono persino dei croccantini ed è stato un successo devastante sul mercato americano. E dunque oggi parliamo di cani e per farlo dove sono andato? A Central Park, ovviamente, che per i cani è l'equivalente del paradiso. A Central Park i cani possono correre liberi fino alle 9 del mattino e dopo le 9 di sera. Ci sono state mille polemiche e qualcuno che diceva che era pericoloso, qualcuno che ha fatto causa alla città. Alla fine ha sempre prevalso l'idea di libertà. E dunque incontriamo alcuni dei padroni, la fauna umana che porta i cani a Central Park. Hi, what's the name of your dog? Chloe. A Joy abbiamo chiesto di farci abbaiare il suo cane, di farlo parlare. Lei dice no, non lo faccio abbaiare, lo faccio parlare. E alla fine, speak, speak, avete sentito l'abbaio. What's your dog's name? And which one is your... Questo era il padrone orgoglioso di Lila e adesso sentiamo l'altro padrone orgoglioso di Rosalie. My dog's name is Rosalie. E questa signora che vi sto per far sentire dice che lei è cresciuta a New York City, però il cane la porta ogni mattina al parco e quindi grandi passeggiate. I grew up in New York City. Qui invece John ci racconta che ha scoperto mille angoli di Central Park, sempre anche lui costretto dal cane. The dog definitely brings me to e dunque per parlare di cani in America e a Central Park abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Priscilla Rattazzi, una fotografa italiana che vive a New York, la figlia di Susanna Agnelli. Ha dedicato Priscilla gran parte della sua vita professionale a foto di cani o di persone con cani ed ha appena pubblicato un libro qua in America, anzi è stato presentato questo libro la settimana scorsa anche da Ralph Lauren a Milano, dove è in vendita. Il libro è Luna e Lola, grandi foto di un golden retriever Luna e di un bassotto Lola, una strana coppia diventata negli anni inseparabile. Priscilla, buongiorno. Buongiorno. Allora Priscilla, Central Park è così fondamentale per i cani? È fondamentale, ci vado tutte le mattine da 13 anni e credo che non potrei vivere a New York senza Central Park. Proprio un'oasi di pace meravigliosa. Si parte a parlare, ma loro, il tuo, quanto età, ci si scambia racconti, si parla delle personalità del cane, poi c'è sempre il dramma, il cane che sta male, il cane che ha dei problemi di salute. Sì, no, io ho molte amiche a Central Park, vedo solo a Central Park tutte le mattine. Ecco, in un altro tuo libro, Amico mio, foto di cani con i loro padroni, c'è una introduzione di tuo zio Gianni Agnelli, in cui a un certo punto, parlando dei cani, dice: mi tormenta la brevità della loro vita, e racconta che, essendo preso da questo tormento, a un certo punto andò a comprarsi un pappagallo, perché dice: questi pappagalli vivono anche 100 anni e quindi non c'è questa preoccupazione del cane che muore prima di te, che ti dà delle angosce, eccetera eccetera. Se non che poi, quando ha portato il pappagallo a casa, il cane gli è saltato addosso e se l'è magnato. Ha trovato nell'entrata di casa due piume e il becco del pappagallo che erano gli unici resti, e dice: quindi vabbè, alla fine ho capito, sono tornato ai miei cani senza più preoccuparmi dei pappagalli. Ecco, però questo concetto che ha espresso tuo zio, cioè la questione della brevità della vita di un cane, è una cosa a cui pensi? Ci penso tutti i giorni, anche perché il libro che ho appena pubblicato è apposta basato sul fatto che poi la mia cagna più vecchia, Luna, è poi morta di cancro 9 mesi fa. La premessa del libro era che Anzi, è che sono una strana coppia. Ecco, l'una si è ammalata mentre tu preparavi il libro e dunque poi questa malattia e poi la sua morte ha cambiato un po' la natura del libro. Perché? Beh, il libro si è intristito, soprattutto perché poi l'una è morta molto rapidamente. Cioè, è stata una gran tristezza, ma è stata una gran tristezza appunto come poi chi poi leggerà il libro vedrà che la morte di l'una è stata una gran metafora della mia vita, anche perché i miei figli hanno ormai 25, 19 e quasi 16 anni, sono cresciuti ed c'è tutta stata questa cosa simbolica che il mio primo cane è morto e i miei figli sono ormai grandi, per cui è finito un enorme periodo della mia vita che è il periodo dell'infanzia dei ragazzi. Cioè si è chiusa un'epoca in sostanza. Chiusa un'epoca. Possiamo anche dire che forse tu con questo libro anche un po' hai esorcizzato, cioè ti ha aiutato a superare questo momento difficile? Assolutamente mi ha aiutato, perché poi la creatività ti salva. Tutto lo sforzo creativo che è andato per finire questo libro certamente mi ha aiutato moltissimo. Quando io lavoravo per un fotografo giapponese qui a New York quando avevo 22 anni, lui mi diceva sempre: guarda, il lavoro poi ti salverà sempre, qualsiasi cosa ti succede. Le grandi sofferenze della tua vita vengono poi aiutate dal lavoro. Quanto è importante un cane in una casa? Il cane è fondamentale, voglio dire, io adesso per esempio, anche se la mia ultima figlia ha 15 anni e mezzo, in questo momento non c'è perché è andata a fare un trimestre fuori, e per cui io ho la casa vuota in questo momento, però la casa non è vuota perché intanto ho preso subito un cane nuovo, un nuovo Golden che si chiama Leo, e poi c'ho anche ancora la piccola Lola, la bassotta, e per cui io torno a casa e ho questi due esseri meravigliosi che mi accolgono con le loro code sconsolanti, che sono sempre contenti di vedermi, che sono sempre di buon umore e che così portano questa immediata allegria appena uno apre la porta di casa, perché il mio cane nuovo è così allegro, sono così allegri i cuccioli. E mi dicevo ieri l'importanza di, nel caso dei cani, di avere dei cuccioli nuovi, di stare coi cuccioli. Nel caso dei giovani, l'importanza di stare coi giovani. Per esempio mia figlia che è all'università, ieri sera è tornata a casa con tutto il suo gruppo corale e sono venuti a New York per 2 giorni, hanno cantato a Central Park e anche davanti al Plaza Hotel con il cappello, hanno guadagnato $150 e poi sono venuti tutti a mangiare da me, gli ho fatto un bel piatto di pasta ed erano tutti così simpatici e allegri e giovani, mi hanno fatto morire da ridere. Ho pensato: Dio mio, veramente bisogna stare coi giovani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Jimmy Tamborello, che ha fondato i Postal Service, torna con un nuovo album a 3 anni di distanza, questa volta con lo pseudonimo di Dien Tell. E dunque Postal Service, Nothing Better. I can't accept that it's over. And I will walk the door like a coney, tending the net in the third quarter of the tie game rivalry. Said, just say how to make it right. And I swear I'll do my best to come. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.